434. Broccoli o talli di rape alla fiorentina. I broccoli di rapa non sono altro che le messe o i talli delle rape, le quali sogliono portare al mercato con qualche foglia attaccata. È un erbaggio dei più sani, usatissimo in Toscana, ma per la sua insipidezza e sapore amarognolo non è apprezzato in altre parti d'Italia e nemmeno è portato sulla mensa del povero. Nettate i broccoli dalle foglie più dure, lessateli, spremeteli dall'acqua e tagliateli all'ingrosso. Tritate 2 o 3 spicchi d'aglio o lasciateli interi. E preso che abbiano colore con olio abbondante in padella, gettateci i broccoli. Conditeli con sale e pepe, rimestateli spesso e lasciateli soffriggere molto. Possono servirsi per contorno all'esso o anche per mangiarli soli. Se non vi piacciono così, lessateli e conditeli con olio e aceto. Nel febbraio e nel marzo si mettono in vendita i talli di questa pianta che sono teneri e delicati. Nei paesi dove l'olio non è perfetto, si può supplire col lardo, anzi, a gusto mio, soffritti con questo sono migliori.